Now, tonight, or this evening, we'll do two things. There'll be a Dhamma talk, and I hope not too long, and Satnam Vin, followed by a question-answer session. And so if you have any questions related to the meditation practice, then kindly ask. Allora, questa sera faremo due cose, ci sarà un breve discorso di Dhamma e poi ci sarà una sessione di domande e risposte. Quindi se avete delle domande da porre riferite alla pratica, potete chiederle. Now, we shall continue from where we left off the other day, namely the five limbs of striving, and out of in the Pali scriptural language known as Paddhanyanga. Paddhanyanga, quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato qualche sera fa, e quindi letteralmente sono i cinque arti dello sforzo. E poi in Pali appunto è quello che ha detto. Paddhanyanga. Paddhanyanga. And so, as you will remember, the first limb or part of striving is that of faith, namely faith in the various virtues of the Buddha. Quindi il primo cosiddetto arto, o comunque la prima parte, riguarda la fede, quindi la fede nelle virtù del Buddha. And the second limb of striving is to be free from illness, or in other words to be to possess good health. E la seconda è essere libero dalla malattia, e quindi in altre parole possedere una buona salute. And the third one is honesty and sincerity. Il terzo è l'onestà e la sincerità. And then number four, which we have dealt with to some extent but not fully, and we will continue with this today, is ardent effort. E quindi il quarto, che abbiamo trattato ma non pienamente, è questo sforzo ardente. And the last and fifth limb of striving is that of wisdom, and with this, this one also we have not dealt with yet. E il quinto cosiddetto arto, o si può dire anche ramo, il limb può essere o un arto, tipo una gamba, braccio, o un ramo di un albero. Quindi questa quinta parte riguarda la saggezza, e questa ancora non l'abbiamo trattata. Now, just to briefly restate from the sutta, the text, the very short paragraph on energetic effort, or ardent effort, sorry. Then one is energetic in abandoning unwholesome states and in undertaking wholesome states. Allora, solo per ripetere quello che dicono i testi riguardo a questo sforzo ardente, allora si dice lì una persona è ardente nel abbandonare gli stati mentali non salutari e nel promuovere invece gli stati mentali salutari. One is steadfast. Quindi uno è, come dire, rigoroso. Launching one's effort with firmness. Quindi è come se lanciasse, proiettasse il proprio sforzo in maniera ferma. And persevering in cultivating wholesome states. E quindi è perseverante nel coltivare questi stati salutari. Now, in order to understand this particular passage better, it is indeed worth looking at the Pali. Per comprendere meglio questo passaggio vale la pena di analizzare la lingua Pali. And so there it says arada virio viharati akusalanam dhammanam pahanaya, which means to abandon unwholesome mental states with ardent effort. Allora, quello che ha recitato in Pali significa abbandonare gli stati mentali non salutari con questo sforzo ardente. And then it says kusalanam dhammanam upasampadaya. Now, kusala, kusala is kusala dhamma, are wholesome mental states. And certainly then, the Upasampadaya means certainly one will brings this about, one undertakes. Quindi Kusala o Kusala Dhamma sono gli stati mentali salutari e Upamadana. Upasampadaya. Upasampadaya, non ne parlo mai. È praticamente lo sforzo che ci vuole per far sorgere questi stati mentali salutari. Mm. And certainly then we have a few more terms, namely already on given in English as steadfast and so on, and certainly the respective term here in Pali is tamawa. Poi abbiamo degli altri aggettivi, diciamo, che corrispondono alla qualità di questo sforzo, e in Pali qui sono chiamati tamawa. Tamawa. And so this one we've dealt with already during the earlier Dhamma talk. E di questo abbiamo già parlato nel discorso di Dhamma precedente. And so now the next word is dalha parekamo. Questa che ha detto è la qualità successiva. Dalha parekamo. Dalha parekamo. No. Parekama is the Pali word for exertion, endeavor or effort. Allora, parekama è la parola in Pali che significa sforzo, impegno, and endeavor and effort. Exertion è, un esercizio, ecco, lo sforzarsi, l'impegnarsi. Mm-hmm. And dalha is an adverb meaning firm, strong or steady. Quindi dalha significa fermo, forte e stabile. Stabile. And so when we combine these two words, then it becomes being firm in exertion. Quindi combinando queste parole possiamo arrivare al significato di essere fermi nello sforzo. And so another way of explaining this or translating it would be as launching effort with perseverance. Un altro modo per metterla sarebbe come lanciare lo sforzo con perseveranza, lanciare più proiettare lo sforzo con perseveranza. And so the Dhamma Sangani, which is Abhidhamma, the first Abhidhamma work, modern translation of it, gives this dalha parekama as exerting harder and harder. And that very well catches the meaning of this dalha parekama. E quindi nella prima versione dell'Abhidhamma questo viene tradotto con sforzarsi sempre di più. E questo dà un buon, come dire, rende bene l'idea di questa parola in Pali, questa parola composta in Pali. And so remember, it says in the English translation with launching steadfast launching one's effort with firmness. E quindi nella traduzione inglese si dice quindi questa stabile questo proiettare stabile dello sforzo con fermezza. Now, when we're new to the meditation practice, we might certainly think, well, if I put in a certain amount of effort at the beginning of the retreat, okay, that's certainly fine, and then I'll just cruise along at that level. All'inizio di un ritiro uno può pensare, beh, dopo che ho messo questo sforzo iniziale nella pratica, beh, poi posso, come dire, lasciarmi andare e navigare tranquilla su quel livello. And sorry to tell you, but this will not work. Mi spiace dirvi che questo non funzionerà. And indeed, your efforts over time needs to increase gradually. In realtà quello che è necessario è che il vostro sforzo aumenti gradualmente nel tempo. And so, especially later on when the practice or during the more advanced stages in the practice, it takes a lot of effort, not just powerful effort, but moment to moment effort. soprattutto poi nella pratica più avanzata, quello che è necessario non è tanto uno sforzo potente, ma uno sforzo che si esercita attimo dopo attimo. And in this, effort is very similar to mindfulness, which also needs to be as continuous as possible. E in questo senso è molto vicino alla consapevolezza, che anch'essa deve essere la più continua possibile. And so, as has been mentioned during previous Dhamma talks, effort is that mental factor that propels the observing and knowing mind towards the object of observation. It sends the mind to the object. E come abbiamo già detto precedentemente, lo sforzo è quel fattore mentale che spinge la mente verso l'oggetto, la direziona verso l'oggetto. So, effort is not an object arises and then with your mind you notice there is some object there, but you rather go on daydreaming. Quindi quello che lo sforzo non è, è quando un oggetto sorge e voi sì, con la mente osservate che l'oggetto è sorto, però poi continuate nel vostro sogno ad occhi aperti. Now, the next certain qual or next Pali term that is being mentioned, and that's the last one, anikita duro kusalesu dhammesu. Now, kusala are again, kusala dhamma are again your wholesome mental states, and the interesting part is anikita duro. Allora, qui di nuovo c'è un termine Pali, la prima parte di nuovo questo Kusala, che sono gli stati mentali salutari, e poi questa seconda parte che è più, come dire, è interessante ed è Anikita Duro. Anikita Duro. Anikita Duro. Now, Dura is certainly your responsibility or your charge, your duty, your task. Dura è, corrisponde al, o significa la responsabilità, il proprio compito, il proprio dovere. And so then, anikita means not to drop one's duty or task. Anikita significa il non far cadere, quindi non abbandonare il proprio dovere, il proprio compito. So when we combine those two terms, namely anikita and duro, then it becomes anikita duro or anikita durata, and this then means persevering or not shirking one's responsibility, one's task. E quindi mettendo insieme queste due parole, quindi anikita duro o durata, durata. Allora questo significa praticamente perseverare nel non lasciare andare i propri doveri, la propria responsabilità, il proprio compito. And so to put it differently, not relinquishing one's task. E quindi non, di nuovo, non abbandonare il proprio compito. Relinquishing one or abandoning one's task of being mindful and or let's say an exerting effort in being mindful would be to say, well, I've practiced hard enough this morning and now I've really earned myself a long nap. Allora, cosa vuol dire abbandonare il proprio compito? È dire, beh, io oggi mi sono già sforzato abbastanza, adesso mi merito un lungo riposino, una pennichella. Or another manifestation of dropping one's task, abandoning one's task or responsibility, would be to say, okay, enough of this, I've had a good sitting, and now I will just go outside and walk around the forest and enjoy the scenery, etc. Oppure un altro esempio di questo abbandonare il proprio lavoro, il proprio compito, è di dire, bene, adesso ho fatto una buona seduta e quindi me ne andrò a fare un giro nel bosco ad ammirare la natura. And so, this too will not work. Anche questo non funzionerà. Now, let us go on and look at a few more aspects related to effort. Quindi andiamo avanti, vediamo alcuni altri aspetti relativamente allo sforzo. Now, effort, as certainly you will all know by now, could be balanced effort, ideally, but certainly could also be, or become excessive effort in one case, or it could be could become deficient effort in another case. Quindi, come già sapete, lo sforzo può essere uno sforzo equilibrato, però può anche essere uno sforzo eccessivo oppure insufficiente. No, in alcuni casi. In the Majjhima Nikaya, there, volume 3, section 159, there is a passage where the Buddha says, "I was abiding diligent, I considered thus. Excess of energy arose in me, and because of excess of energy, my concentration fell away." Allora, nel Majjhima Nikaya il Buddha dice: ero seduto in meditazione e a causa di un eccesso di sforzo la mia concentrazione se n'è andata, si è dissolta. And when my concentration fell away, the light and the vision of forms disappeared. E quando la concentrazione se n'è andata, allora la luce e la visione delle forme è scomparsa. Now, the Buddha is describing a relationship between excessive effort and a drop or loss in concentration. Quindi qui il Buddha descrive questa relazione tra un'eccessiva concentrazione e un eccessivo sforzo e una perdita della concentrazione. And to be more complete, oftentimes the restlessness is being mentioned in between. So, excessive effort usually, especially in the case of the five controlling faculties, leads to restlessness. And the restlessness indeed then has an impact on the concentration. E di solito tra i due, cioè tra l'eccessivo sforzo e la concentrazione, e il calo nella concentrazione, c'è la irrequietezza. Soprattutto come fattore all'interno dei cinque fattori di controllo. Quindi un eccessivo sforzo porta a questa irrequietezza nella mente che poi conduce a una minore concentrazione. Now, the Buddha has given a very, very clear illustration for excessive effort and also deficient effort. Quindi Buddha dà un buon esempio riguardo a questo sforzo eccessivo o insufficiente. Namely, that of tuning, tuning a lute, or in modern terms it could be a guitar or a violin. È quello di accordare un liuto, oppure in termini moderni potrebbe essere una chitarra o un violino. So, when you tighten the strings too much, then what will happen? Quindi se le corde sono tirate troppo, cosa succede? They will break, there you go. Si romperanno. And so the same thing may happen in the meditation practice. E la stessa cosa può succedere nella pratica della meditazione. And so, because of this, a balanced effort is so important. Ed è proprio per questo che uno sforzo equilibrato è così importante. Now, just like we want to avoid excessive effort, we also want to avoid certain deficient effort. Così come vogliamo evitare uno sforzo eccessivo, vogliamo anche evitare uno sforzo insufficiente. And so both kinds of extreme effort, or excessive as well as deficient, are mentioned in the text. E entrambi i casi, da un estremo all'altro, sono menzionati nei testi. And so, as is well known, when one does not put in sufficient effort into one's practice, then the result is going to be the arising of sloth and torpor. E come si sa, quando uno non mette sforzo a sufficienza nella propria pratica, il risultato sarà la pigrizia e il torpore. And so, when you're overcome by sloth and torpor, you will have a hard time observing the qualities of the rising and falling movement of the abdomen or any other predominant object. E quando si è presi da questa pigrizia e torpore, sarà molto difficile osservare le qualità dell'addome che si alza o si abbassa o qualunque altro oggetto che sorga predominante. Now, just for a better understanding the nature of the mental factor of effort. Allora, per capire meglio questo fattore mentale dello sforzo. Its characteristic is given as enduring or forbearance in the face of difficulty. Quindi la sua caratteristica è quella del del resistere, del sopportare, della sopportazione di fronte alle difficoltà. Or else as supporting. Oppure come una cosa che sostiene, che supporta. Or as exertion. O come qui. Exertion è uno sforzo, in italiano sono sinonimi. And then or else as marshalling. Oppure come un contenere. Yeah, right. And its function is to support the associated mental states. Allora, la sua funzione è di sostenere gli stati mentali associati. Now, this requires an explanation. Let's say, you're observing some weak pain, and at first, effort is there, and a couple of other wholesome mental states are there. Allora, immaginiamo che uno osservi un dolore debole, allora c'è lo sforzo e ci sono anche un altro paio di fattori mentali positivi. Now, when observing that sudden pain, the pain gradually becomes stronger and stronger, then after a while of observing this intensifying pain, then the wholesome mental state or the mind starts to wither, and some of the wholesome mental states may start to fall away. Allora, man mano che il dolore però si intensifica, si fa più forte, allora questi stati mentali positivi o salutari cominciano un po', o meglio, la mente comincia a ritrarsi e questi stati mentali positivi cominciano ad allontanarsi, diciamo. And so the mind becomes less and less inclined to observe the pain. E la mente diventa sempre meno incline a osservare il dolore. And so supporting associated mental states means that effort needs to be boosted so the mind then or so that the wholesome mental states that previously were there, that they are kept together. Allora, questa funzione quindi di sostegno dello sforzo è proprio quello di assicurarsi che questi stati mentali positivi, salutari, che prima c'erano nella mente, rimangano lì e facciano il loro lavoro. And so, when indeed one has boosted one's effort, then the result of this and the manifestation is going to be in the form of non-collapse. The mind is not collapsing. E quindi quando si ha questa sorta di boost, questa energia data allo sforzo, allora si manifesta, o il risultato sarà, la sua manifestazione sarà il non crollare, nel senso che la mente non crolla, è ferma. And so the illustration that is classically given in this context is an old dilapidated house on the verge of collapse. E l'esempio che viene dato, l'immagine che viene presentata per questo aspetto è di una vecchia casa che è proprio sul punto di crollare. And so the walls of the house, the roof, etc. They're just about they're ready to fall apart. E quindi sia il tetto della casa che le pareti sono proprio lì lì per aprirsi e crollare. And so when you then go to some construction place or a journey and get some 4x4s and then you would lean them against the walls and make sure that they're well connected with the ground and so on, then the house will continue to function for maybe a couple of more years. Allora uno poi se va in un se prende dei pali belli robusti e li mette contro le pareti e riesce ovviamente a fissarli bene sul terreno, allora può tenere su questa casa ancora per qualche anno. And so the approximate causes for the arising of energy is anything that stirs one to vigorous action that causes one exactly that. Quindi la causa prossima dello sforzo è qualsiasi cosa che possa stimolare praticamente qualcuno a mettere in atto un'azione vigorosa. No. Also to better understand the nature of effort, virya, it's worth taking a brief look at the Abhidhamma, what the Abhidhamma has to say. Per capire meglio questo fattore dello sforzo, virya, è bene guardare cosa ne dice l'Abhidhamma. And so effort is one of those six occasionals, pakinaka in Pani, which means ethically variable mental states. Allora, l'Abhidhamma fa rientrare lo sforzo tra quei sei fattori o stati mentali cosiddetti occasionali. Cioè sono dei fattori ethically variable. Quindi sono dei fattori eticamente variabili. And so, this means that effort can arise together with unwholesome mental states such as greed, hatred and delusion, but effort can also arise together with sense sphere wholesome consciousness and sense sphere resultant consciousness. Allora, questo significa che lo sforzo può sorgere sia con gli stati mentali non salutari come l'avidità, l'odio e l'illusione, ma anche con quelli salutari che dice sense sphere wholesome. Quindi gli stati salutari della sfera sensoriale, sense sphere resultant, e i risultanti della sfera sensoriale. And then functional. E poi gli stati appunto funzionali. And then with all the jhanas. Poi sorge insieme, in associazione con tutti i jhana. And so, together with the four paths and fruits. E insieme ai quattro sentieri e ai quattro frutti del sentiero. So do keep in mind that's the effort or the energy that you put into something could be for a wholesome purpose, but could also be for an unwholesome purpose. Quindi tenete presente che lo sforzo, l'energia che si mette in qualcosa può avere uno scopo salutare, ma anche non salutare. So on the one hand we could exert effort in our meditation practice, which for the most part would be wholesome, but a person might also decide to undertake maybe to do some burglary and puts a lot of energy into that. Quindi noi possiamo mettere lo sforzo nella nostra pratica meditativa e questo sarà sicuramente salutare, però uno potrebbe decidere di mettere dello sforzo o mettere dell'energia in un'attività di furti, per esempio. E questo non è così salutare. Now, when it comes to those three important mental factors, namely effort, mindfulness and concentration, effort is the mental factor that keeps the defilements away, or keeps them at a distance. And sadhana effort is also the mental factor that blocks those sadhana unwholesome mental states. Allora, di questi tre fattori importanti, che sono appunto lo sforzo, la consapevolezza e la concentrazione, lo sforzo è quello che tiene lontani o tiene a distanza i difetti mentali, ed è anche quello che blocca gli stati mentali non salutari dal sorgere. And so, mindfulness is that mental factor that faces and also protects the mind against unwholesomeness. Invece, that faces faces the mental factors and then protects the mind. Faces any mental factor or faces any mental factor. Okay, and it protects the and mind. And it protects the mind against the arising of unwholesome mental factors. Invece, la consapevolezza è quel fattore che affronta qualunque stato fattore mentale e inoltre protegge la mente dai fattori mentali non salutari. And certain concentration is that mental factor that suppresses especially the hindrances. E la concentrazione è quel fattore mentale che reprime gli ostacoli. Now, just like with other mental states or mental factors that are important for the development of our intuitive wisdom, effort can be developed. Quindi così come tutti quei fattori mentali che ci servono per sviluppare questa saggezza intuitiva, anche lo sforzo è una cosa che può essere sviluppata. And so, if at the outset of our very first retreat the effort is still relatively weak, then it doesn't mean that this will have to go on like this forever. It means that we can take that initial effort and suddenly then through training in meditation then turn it into very strong effort. Quindi se all'inizio della nostra meditazione lo sforzo non è poi così forte, noi possiamo però utilizzare questo iniziale sforzo e esercitarci e allenarci perché diventi poi uno sforzo invece più forte. No, a very good example for very strong effort is the Venerasadhu Pandita Bhimamsa of Burma. È un esempio vivente, diciamo, di uno sforzo molto molto forte è il venerabile Upandita della Birmania. And so, to give you a story in this context, something that really happened. So several years ago, maybe it's even 10 years ago, during a retreat in England, the venerable had concluded a 10-day retreat with plenty of meditators, it was the last day of the retreat, and we started in the morning with the closing talk, and actually first with the question and answer session, and the question and answer session went on and on and on. And you were translating. And I was translating. Allora, un po' di anni fa, forse 10 anni fa, c'è stato un ritiro in Inghilterra con moltissimi meditanti, guidato dal venerabile Upandita, e l'ultimo giorno di questo ritiro di 10 giorni è cominciato con una sessione di domande e risposta, domande e risposte, ed è andato avanti per molto molto tempo, molto a lungo. E ha aggiunto che lui stava traducendo. Since there was such a big number of yogis, there was also a big number of questions. And lunch approached, it was 11:20, the venerable sadhu still answered questions. And it was 11:30, he still answered questions. And then, only at 11:20, or maybe 35 or so, finally we interrupted the question and answer session, went for an extremely short lunch of barely 15-20 minutes, had a short break, and then the question and answer session resumed in the afternoon, early afternoon. E quindi si sta avvicinando l'ora del pranzo, arrivano alle 11.20, 11.30 e ancora questa sessione di domanda e risposta andrà avanti, finché poi alle 12.35 più o meno c'è stata un'interruzione, una breve pausa per il pranzo e il riposo, immagino, e poi pomeriggio subito si è ripreso con le domande e risposte. And then finally all the questions were answered. Then the Venerable Sayadaw went on to give a Dhamma talk. Poi alla fine ha dato risposta a tutte le domande, poi ha continuato con un discorso di Dhamma. And so, as far as I remember, there was also expressing gratitude here on various sides. E poi c'erano anche dei momenti in cui si esprimeva gratitudine, no, da una parte o dall'altra. And so, then finally the program ended. E poi finalmente è finito il programma. And it was at least 3 p.m. È finito almeno alle 3 del pomeriggio. Then we had very little time to pack up our things and then to leave. Abbiamo poi avuto pochissimo tempo per fare le nostre valigie e partire. And then from the retreat center, it was a hired location. Then we went on to the building that had just recently been purchased for a new monastery. E poi da lì, da questo centro di ritiri, siamo andati nel nuovo edificio che era appena stato acquistato dal monastero. Now, there, once we got there, the Venerable Sayadaw gave another Dhamma talk to the Burmese community that was there, and so, then there was some chanting. E quando siamo arrivati lui ha fatto un altro discorso alla comunità birmana che era lì, e poi ci sono state delle recitazioni. And so, once that was over, we had a longer journey by car to the old monastery. E poi abbiamo fatto ancora un viaggio in macchina fino al vecchio monastero. So finally we got there, and I'm guessing I forgot the exact time, around let's say 6 p.m. Siamo arrivati lì verso le 6 del pomeriggio. Having barely arrived at the place and settled in, the late devotees approached the Venerable Sayadaw Pandita and said, "Venerable Sayadaw, it's your last day here. Could you give a final Dhamma talk at 10 p.m.? Allora, no, eravamo appena arrivati, ci stavamo appena sistemando quando i devoti laici sono andati da Upandita e gli hanno chiesto: "Beh, è l'ultima sera che sei qui, non è che ci puoi offrire un ultimo discorso di Dhamma?" Erano le 10 di sera. No. At that point, the Venerable Sayadaw at first declined and passed on to his disciple at that monastery, the Sayadaw there. And he also declined. Allora, a quel punto Venerabile Pandita ha rifiutato, diciamo, l'invito e ha delegato il monaco che era lì nel monastero, e anche egli però ha declinato l'invito. And so the Venerable Sayadaw asked me to give the Dhamma talk, and I just was totally worn out, and then I had even with a headache, and I just said, "Venerable Sayadaw, not today, please forgive me." E allora poi questo monaco ha chiesto a Venerabile Vivekananda se poteva dare lui questo discorso, ma lui era veramente esausto, aveva anche mal di testa, gli ha detto: "Perdonami, ma proprio non ce la faccio." And so then the Venerable Sayadaw and then he said, "Okay, well, he will do it." And he even said, he's going to squeeze out the last bit of energy within himself. E allora a quel punto avevo Pandita dice: "Vabbè, allora lo farò io." E ha usato questo termine, come dire, io strizzerò fuori quell'ultima energia che ho dentro. And so, then the Venerable Sayadaw rested a little bit on his bed, and so then around 10 o'clock indeed he went downstairs and he gave a Dhamma talk to the Burmese community. E effettivamente lui si è riposato un pochino nel suo letto, poi alle 10 è di nuovo sceso e ha fatto questo discorso alla comunità birmana. And so, I'm pretty sure the talk went for at least an hour. Il discorso è andato avanti almeno per un'altra ora. And so the next morning, the Venusaur was in top shape. E la sera dopo, il Venusaur era in piena forma. And I've noticed, during those years, we traveled together, and so on several occasions it was like this. Having concluded one retreat, we would then take a plane and heading to another destination, and next retreat coming up, and no time to rest in between. And the Venerable, he would just, on the plane, just lean back and suddenly close his eyes and obviously meditate and recharge his battery, as he would oftentimes say. E ho notato nel tempo, avendo viaggiato con lui, aver fatto diversi ritiri, che spesso le giornate erano così, erano molto intense e semplicemente lui, andando da un posto all'altro, magari in aereo, si appoggiava semplicemente allo schienale, chiudeva gli occhi, sicuramente meditava, e in quei momenti lui era come se ricaricasse le sue batterie. And so, the Venerable Sadhu is approaching the age of 90, and so he's still traveling around the world, and now it's end of April, so by now I think he's still in Taiwan, and then from Taiwan going on to San Jose in California. Adesso il Venerabile Sayadaw ha quasi 90 anni e ancora sta girando per il mondo a fare ritiri. Adesso sta finendo a Taiwan e poi se ne andrà a San José in California. And so the retreats in Taiwan and so in California are big retreats. E questi ritiri a Taiwan e in California sono grandi ritiri. And not just for a week, but for a month at a time. E non durano solo una settimana, ma durano un mese per volta. At least the one in San Jose, as far as I know. Quello in San Jose, almeno, è così. No. So, all of this is just to show you, that effort is nothing, nothing solid. Nothing, it's not a mental state that has to be very weak, but it is a mental state that we can develop to an extremely high level. E quindi questo solo per dirvi che lo stato il fattore mentale dello sforzo è una cosa che intanto non è solida e non necessariamente è una cosa debole, ma può essere sviluppato ad un livello molto molto alto. No. How do we experience, how does an effort manifest in our meditation practice? For instance, when the time for walking meditation has come, then we try to walk for the full hour, for the full length of the session. Come si manifesta lo sforzo nella nostra pratica? Beh, per esempio, quando è il momento di fare la camminata, noi ci sforziamo di farla per tutta l'ora della sessione. And so then, in the course of the meditation practice, we start out with what is known as initial effort, and it is with this initial effort that we come to a center, that we get started in the practice, and that we start observing the predominant objects. Quindi all'inizio della pratica c'è quello che si chiama appunto lo sforzo iniziale, che è quello che ci porta in un centro di meditazione, che ci porta a iniziare la meditazione, a osservare l'addome che si alza e si abbassa. And that initial effort is not enough. We need to boost it, namely in particular in the face of the hindrances. E quindi questo sforzo iniziale non è sufficiente, lo dobbiamo incrementare, soprattutto per affrontare gli ostacoli. And so, once we have overcome the hindrances, then we need to build our effort more. And certainly later on, other difficulties will, or again, the hindrances will arise, other difficulties will arise, and again we need to boost our effort. E quando avremo superato gli ostacoli, dobbiamo continuare a sviluppare lo sforzo, perché ci saranno ulteriori ostacoli, ulteriori difficoltà, e quindi è necessario uno sforzo maggiore per and superare. So, eventually, when our practice becomes quite or reaches the maturity, then at that point too, our effort still has to grow more, and it has to gradually develop into what you might call perfect, relatively speaking, perfect effort. Ma anche quando poi la nostra pratica giunge a maturazione, dobbiamo continuare comunque a mettere uno sforzo perché possa raggiungere quello che si chiama, potremmo chiamare, uno sforzo perfetto. And so, the Venerable Sarvapandita, in connection with the effort also, likes to point out, when we observe an object, then we need to possess just the right amount of effort and aiming. And so, if our effort is in excess, then it may lead to an overshooting of the predominant object. E come dice l'Onorevole Sarvapandita, ci vuole esattamente la giusta dose di sforzo e di mira per poter osservare un oggetto, perché se lo sforzo è troppo, allora potremmo mirare, cioè sbagliare mira e andare oltre l'oggetto. And if the effort is too weak, so deficient, then it's the case, the other case, namely, then the observing mind falls short of the object. E se lo sforzo è troppo poco, allora si verifica il caso opposto, e cioè che la mente che osserva è come se non arrivasse, non avesse lo sforzo non avesse l'energia sufficiente per arrivare all'oggetto. So effort does play a very important role in the meditation practice. Quindi lo sforzo ha un ruolo importante nella pratica di meditazione. And do check for yourself whether your effort is really already adequate to what is needed in the meditation or not. Quindi, and also whether your effort is excessive or not. Quindi verificate per voi stessi se lo sforzo nella vostra meditazione è adeguato, se è eccessivo oppure se è deficitario, diciamo, se è troppo poco. And so, from a practical point of view, at first, during the first few insight knowledges, our effort at times tends to be excessive, at other times tends to be deficient, and that brings about a certain instability. E soprattutto nei primi stadi, nelle prime conoscenze dell'insight, lo sforzo tende a essere o troppo poco, e questo crea una certa instabilità. And so it is through trial and effort that eventually we learn and we get it right, and we gain balanced effort. Ed è attraverso quel meccanismo di tentativi ed errore che noi riusciamo ad arrivare poi al punto giusto e quindi ad avere uno sforzo equilibrato. So, in praise of effort, Dhammapada verse 110 says, better than 100 years than the life of a person who is idle and inactive is. Allora, Dhammapada verso 110, nel lodare lo sforzo, dice, la cosa migliore di vivere 100 giorni nella pigrizia e nell'indolenza is a day in the life of one who makes certain a strenuous effort. Quindi meglio di questo è un giorno della vita di una persona che esercita un grande sforzo. And exerts a great effort in the field of Satipatthana meditation and or Samatha meditation. E quindi esercita questo sforzo sia nel campo della meditazione di Samatha Vipassana che in quella di Satipatthana Vipassana che in quella di Samatha. Yes. Now, briefly, a few words about wisdom, which is the fourth factor of those limbs of striving. E quindi qualche parola sulla saggezza, che è questo quarto fattore. Limbs, or do you mean like a limb? Yeah, sure. Parts, proprio nel senso di arti, quindi. E quindi è il quarto arto dello sforzo. Oh, sorry, five foot limbs, okay. Not four. Sono cinque gli arti. Sorry, my mia culpa. And so the fifth one is, then a meditator is wise. He or she possesses wisdom regarding rise and disappearance that is noble and penetrative. Allora, si dice appunto il meditante quindi sviluppa questa saggezza che gli permette di vedere il sorgere e lo svanire degli oggetti con una saggezza penetrativa. Penetrante e nobile. Una saggezza che è nobile e penetrante. And leads to the complete destruction of suffering. E questo porta alla completa distruzione della sofferenza. Now, by wisdom is meant, or by being wise, and of course is meant intuitive wisdom. E quindi con la saggezza o con l'essere saggi si intende questa saggezza intuitiva. And certainly the mental factor that corresponds to this is panya in the Pali scriptural language. Quindi il fattore mentale che corrisponde a questo è panya nella lingua Pali. And so to give you a very short and precise definition, well, it's knowing things as they are. Per darvi una definizione breve e precisa, è il conoscere le cose come realmente sono. And so to elaborate on the characteristic function and so on of wisdom, well, its characteristic is to penetrate objects according to their intrinsic nature. E la caratteristica della saggezza è penetrare gli oggetti sulla base della loro natura intrinseca. And so, then its function is to illuminate the objective field, so your field of objects. E quindi la funzione è quella di illuminare il rispettivo campo, quindi il campo degli oggetti. And it is manifested as non-bewilderment or as absence of confusion. E la manifestazione è il non stupore o l'assenza di confusione. And so then these two approximate causes are given for the arising of wisdom, and one being a wise attention, and so then the other one being a consolidation of the mind, in other words noble concentration. Sono date due cause prossime per il sorgere della saggezza. Una è un'attenzione saggia, l'attenzione saggia, e la seconda è una mente unificata. And in other words, concentration. Che corrisponde alla concentrazione. No, the text that says that one is wise, one possesses wisdom regarding rise and disappearance. Now, what is this? Wisdom regarding rise and disappearance. Allora, il testo dice che si sviluppa questa saggezza in riferimento al sorgere e allo svanire. Allora, cosa si intende con questo? Who knows? Chi lo sa? Simple. What is that? There you go. Il quarto insight, praticamente la quarta conoscenza intuitiva. So, as you know, there are a number of different insight knowledges, and the fourth one is like as Sandra said, seeing formations as, or seeing the fast arising and passing away of formations. Ma come sapete ci sono diverse fasi nella pratica, diversi insight, e il quarto è proprio quello del vedere il veloce sorgere e svanire degli oggetti. And so here to be wise place, then is tantamount to having gained that certain fourth insight knowledge. E quindi qui l'essere saggio è è proporzionale, è riferito all'aver acquisito quella quarta conoscenza dell'insight. And so, at that point in the practice, one already gets a good taste of it, and usually will want to go on. Taste of the practice, you mean? Taste of the practice, right. A quel punto uno quindi è come se avesse già cominciato ad assaporare la pratica e quindi vuole andare avanti. And so it is said in the text, the Venerable Pandita is saying this on occasion, but I still haven't found the reference, that a meditator who has gained the fourth insight knowledge under skilled or skillful meditation teacher will gain the knowledge of path consciousness or path knowledge within the lifetime. Within a lifetime, right? And who said this? Sorry, the Venerable Sayadaw Pandita. Il venerabile Sayadaw Pandita ha detto che chi raggiunge questa particolare conoscenza, questo particolare insight, il quarto, allora nella propria vita potrà gustare o potrà entrare nel sentiero. Raggiungere il primo stadio del sentiero. No. All the all the training that we're doing here together, starting with being established in virtue, and suddenly then restraining our senses, and suddenly then being mindful, and suddenly so on and so forth. All of this is intended to purify the mind and to bring about the arising of intuitive wisdom. Quindi tutta questa pratica, questo allenamento, questo tirocinio che stiamo facendo, quindi l'esercizio nella virtù, il controllo dei sensi, lo sviluppo della consapevolezza, tutto questo ha come scopo, come fine, la purificazione della mente e lo sviluppo di questa saggezza intuitiva. And so, the Buddha in the Samyutta Nikaya, volume 5, section 411, gives four factors that certain contribute to the realization of the fruit of stream entry. Quindi il Buddha nel Samyutta Nikaya indica quattro fattori che permettono di raggiungere il frutto dell'ingresso nel sentiero. First one is association with a superior person. Quindi il primo è il frequentare una persona superiore. Then hearing the true Dhamma. Poi l'ascoltare il vero Dhamma. Then careful attention. Poi una attenzione attenta, che non si dice in italiano, una forte attenzione. And then practice in accordance to the Dhamma. E poi la pratica concordemente al Dhamma. So just hearing the Dhamma is not enough, one actually needs to put it into practice. Ascoltare il Dhamma non è sufficiente, uno lo deve mettere in pratica. Now, just for a better, for general knowledge, the intuitive wisdom or knowledge that we are talking about, that has to be distinguished from other forms of knowledge. Quindi per meglio comprendere, questa conoscenza o questa saggezza intuitiva di cui stiamo parlando va distinta dagli altri tipi di conoscenza. And so, the Buddha himself mentions three kinds of knowledge, namely knowledge based on thinking, cintamaya panya in Pali. Quindi il Buddha stesso indica tre tipi di conoscenza. La prima è basata sul pensare. Then the second one is that knowledge based on hearing or on learning. La seconda è basata sul sull'apprendimento. And the last one is knowledge based on mental development. E il terzo tipo di conoscenza è basata sullo sviluppo mentale. And based on thinking is that knowledge which one has acquired through one's own thinking. Quindi quella che è basata sul pensare è appunto la conoscenza che si raggiunge pensando. And so, let's say you have some technical problem or so, and suddenly without consulting an electrician, you look at the problem, you study it carefully, and then eventually you find the solution and you repair it. Per esempio, avete un problema elettrico e senza neanche chiamare l'elettricista, pensate al problema e riuscite a risolverlo da soli. And based on learning is that knowledge which one has heard from others and thus acquired through learning. Invece la conoscenza basata sull'apprendimento è quella che uno ha acquisito da altre persone e quindi l'ha fatta propria praticamente. And so the knowledge that you've gained and through attending school and then maybe attending college or university, etc., even reading a book, all of this comes under the second category. Quindi tutta la conoscenza che avete acquisito andando a scuola, fino alla scuola superiore, all'università, eccetera, o anche quella che avete acquisito attraverso i libri, rientra in questa seconda categoria. And it is through the meditation practice that we gain what is known as knowledge based on mental development. Ed è attraverso la pratica della meditazione che noi acquisiamo quella che viene definita la conoscenza basata sullo sviluppo mentale. Now, just a brief remark about knowledge based on thinking. Quindi brevemente qualcosa riguardo alla conoscenza basata sul pensare. The philosophy of the Greeks could be described as a philosophy that deals with abstract concepts. Quindi la filosofia dei greci può essere definita come una filosofia basata su concetti astratti, intellectual models, o modelli intellettuali, abstract ideas, idee astratte, and abstract theory, teorie astratte, logic, la logica, and then philosophical thinking, e pensieri filosofici. And Nolan Pliny Jacobson, the author of Heart of Buddhist Philosophy, describes this kind of philosophy of the Greeks as follows. Quindi Nolan Jacob Pliny Jacobs, che ha scritto un libro sulla filosofia buddista, definisce la filosofia greca in questi termini. And he says the ancient effort of the Greeks to balance the world upon thought. Quindi parla di questo sforzo dei greci di equilibrare il mondo basandosi sul pensiero. So, now then, when you hear this, when you reflect on this, when we meditate, is this the same or not? Quindi riflettendo su questo, quando noi meditiamo, è lo stesso oppure no? Goose clearly shakes his head in negation, so it's not the same thing. Non è la stessa cosa. No. And so there's a huge difference between Western philosophy that is based on what we've heard, concepts and so on, of thinking, and the intuitive, the wisdom that is gained from intuitive from contemplation of the body and the mind. E quindi c'è un'enorme differenza tra questa conoscenza occidentale che è basata su queste teorie, queste astrazioni, questi concetti, e invece quella basata invece sulla contemplazione o quella saggezza intuitiva che sorge dalla contemplazione della mente e del corpo. And so you can think as much as you like, but you will most likely not understand anatta, and for sure, even if you understand anatta intellectually, you will not understand nibbana. Quindi potete pensare finché volete, ma non potrete mai conoscere anatta, o potrete conoscerlo a livello intellettuale, ma sicuramente non potrete conoscere nirvana. Or when it comes to things such as let's say overcoming greed. So you want to do this by thinking, may my greed go away, may my greed go away, etc. It will not go away that way. Oppure quando, se volete per esempio liberarvi della brama, riuscireste a farlo semplicemente col pensiero e ripetervi che possa la mia brama andare via, possa andare via? No, così non ci riuscirete senz'altro. And so, there are limits, there are clear limits to the scope of thinking or philosophy. Quindi ci sono dei limiti all'interno di questo ambito del pensare o della filosofia. And so, the amazing thing about the meditation practice, especially Satipatthana practice, is that in the end it has the potential and the power to bring about a revolution in the mind, and this means by eradicating unwholesome defilements from the stream of consciousness once and forever. E la cosa incredibile della meditazione, soprattutto della meditazione Satipatthana, che può sradicare completamente dal flusso della coscienza l'abilità, l'odio e l'illusione, può eliminare questi stati mentali non salutari dalla mente per sempre, completamente. And so, now, for a better understanding of this last short passage from the sutta, we need to distinguish between two kinds of wisdom, namely mundane wisdom, in Pali known as lokiya, banya, and then supramundane wisdom, lokotrapanya, in Pali. Per capire meglio questo testo, allora è utile distinguere tra due tipi di saggezza, quella mondana o ordinaria e quella sovramondana. E poi ho detto i rispettivi termini in Pali. So, mundane knowledge is any kind of knowledge which is not associated with path and fruition and nibbana. Quindi quella mondana o ordinaria è quel tipo di conoscenza o di saggezza che non è collegata né con il sentiero, né con la fruizione, né con il nibbana. Whereas supermundane knowledge is that knowledge that arises in connection with, or knowledge concerning the four paths and the four fruits. Invece quella sovramondana è quella che riguarda i quattro sentieri e i quattro frutti. And la conoscenza sovramondana. So in our passage it says that one is wise, one possesses wisdom regarding the rise and disappearance, that is noble, and penetrates and leads to the complete destruction of suffering. Ecco, quindi per ritornare al nostro brano, si dice appunto che si sviluppa questo tipo di saggezza che porta alla completa distruzione della sofferenza. And the complete destruction of suffering is a term for arahantship, gaining arahantship. E questa completa distruzione della sofferenza si riferisce al raggiungimento dello stato di arahant. Now, one does not become an arahant just like this. First one needs to become an stream enter with these certain mental defilements or fetters will be uprooted from the mind. E quindi uno non diventa un arahant così di punto in bianco, prima diventa un sotapanya, una persona che entra nella corrente e alcuni difetti mentali già saranno sradicati dalla mente. And so then one needs to continue to practice and gain the next two levels of enlightenment. Uno poi deve continuare la pratica e raggiungere i successivi due livelli di illuminazione. And so then one needs to continue again. Poi uno deve continuare ancora. And suddenly, eventually, will come an eradication of the remaining mental defilements and suddenly also of the remaining taints. E quindi poi uno raggiungerà un punto in cui saranno sradicati tutti i difetti mentali rimanenti e the taints are taint of attachment and the taint of ignorance. E poi eliminerà anche l'attaccamento e l'ignoranza. And so, this is called the destruction of suffering. E quindi è questo che si intende con la distruzione della sofferenza. And so, then let me see. At near the end of our short sutta, it says, when a bhikkhu or lay meditator who possesses these five factors of striving finds a Tathagata to discipline him or her, the person may dwell 7 years until by realizing for oneself with direct knowledge one here and now enters upon and abides in that supreme goal of the holy life. Quindi la fine del sutta è così, che quando possiede questi cinque arti dello sforzo, diciamo, dell'impegno, One finds a Tathagata, so a Buddha, to discipline one. E quindi uno trova un Tathagata o un Buddha che lo aiuti a disciplinarsi. One might dwell 7 years. Uno può dimorare 7 anni. Until by realizing for oneself with direct knowledge, one enters in that supreme goal. Finché uno praticamente in questi 7 anni, per conoscenza diretta, per propria esperienza, entra e raggiunge questa meta suprema. And so, well, if we don't have the fortune to practice under a Buddha and under normal teacher, it might take a little bit longer. Se non abbiamo la fortuna di praticare sotto la guida di un Buddha, ma di un ordinario insegnante, potrebbe richiedere un pochino più di tempo. Now, let me conclude today's Dhamma talk by wishing may you all possess those five limbs of striving, and may you develop those to perfection, and may it result in the end as said by the Buddha, in the destruction of the taints. Allora, termino il discorso di Dhamma augurando a tutti di possedere questi cinque atti dell'impegno, dello sforzo, che possiate svilupparli fino ad arrivare alla perfezione e che possiate, come dice il Buddha, che questo possa condurvi alla distruzione degli impedimenti, dei difetti mentali. And may this happen either here at Pian de Chileji, or here during this lifetime, or maybe during some other lifetime. E che questo possa accadere qui a Pian de Chileji, o comunque in questa vita o nella prossima. Okay, and that's it. E finiamo qui.